24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Dire che troviamo surreale, perché questa davvero non c'era mai successa, surreale che un incontro a così alto livello del governo nessuno sia in grado di neanche, come dire, rispondere alle obiezioni e alle proposte che venivano fatte. Il sindacato non fa trattative con il governo, le leggi il governo non le scrive trattando coi sindacati. Se per anni si è pensato che per fare una legge bisognasse chiedere il permesso ai sindacati, beh, si è sbagliato. Forse è arrivato il momento in Italia che ciascuno torni a fare il suo mestiere. Cos'era questo Rocky 3, 4, 5, 3, 4? The Eye of the Tiger, eh? Li vedete lì? Camusso e Renzi che battagliano al terzo round, al quarto round, al decimo round. Io ho proposto quello, facciano un bel duello, ma veramente, ma sono serio. L'arma la facciamo scegliere alla Camusso in quanto donna, per cavalleria. E poi chi rimane in piedi prende tutto. Che dobbiamo fare? Un po' è così, ormai sono davvero ai ferri corti. Il miglior articolo oggi è di Francesco Bei su Repubblica. A un certo punto Poletti ha detto alla Camusso: ma com'è che siamo qui alla riunione e continuano a uscire agenzie di quello che ci stiamo dicendo in presa diretta? La Camusso l'ha guardato e le ha detto: noi non siamo, ministro, non gli ha detto Renzi che usiamo ancora i gettoni? Se l'era preparata questa la Camusso, eh? I gettoni nell'iPhone. Va bene, sono le 6:33 minuti e questo è 24 mattino, Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, mentre Peter Bescapè in regia combatte come Rocky Balboa. E che dire, siamo qui, questa è 24 mattino. Voglio subito aprire il Parlamento, perché ragazzi, oggi ci sono due ospiti che io, come ho scritto ieri su Twitter, ma chi m'ammazza? Eccoci qua. Apriamo il Parlamento, vai. Oggi. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Oggi. Incredibilmente sveglia. C'è Luisella Costamagna. Incredibilmente sveglia. Mamma mia come mi hanno criticato. Ma io non ho detto niente, Luisella. Ma come non hai detto niente? Ma io ho detto una balla. Ma ho detto che io non mi svegliavo. Io sveglia come un grillo. Come un grillo. Tutte le mattine ti sveglia di te. Perché come un grillo? Vengo a darti la sveglia. Perché come un grillo? Come un grillo, come si dice, no? Sì, ho già tagliato la siepe in giardino praticamente. Ecco. Guarda che c'è secondo me una più sveglia di tutti noi. È già attiva, già produce, già. Cosa c'ha sempre della musica questa? È la direttorissima Aurora Lussana, direttorissima della Padania, che ascolta sempre. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Milan, un caro saluto a te, un caro saluto a Luisella, come sempre un caro saluto ai tantissimi amici di Radio 24. Ovvio, che è la seconda radio più amata dopo Radio Padania. Libera. Libera. RPL. Amatissima Radio 24, ascoltata dai leghisti. Pensate che alla manifestazione contro l'invasione, sì, tutti mi hanno detto: salutami Milan. Ah, va bene, va bene. Tu fossi un mio amico. Non è un mio amico, è un produttore. No, non dire che non è un tuo amico come se fosse una vergogna. Ma, senti un po', cosa stai ascoltando? C'ho su il DVD dell'ultimo dei Moicani. Mamma mia, Luisella, capisci come ci si sveglia a casa? Si sveglia carica. A casa, e perché ascolta, vede tutti questi film di lotta, di rivolta, di ribellione. A difesa dei nativi. Dei nativi. Contro le invasioni straniere. Oh mamma mia, Luisella. E l'oppressione. Luisella ha cominciato. Paura, ha cominciato. Ha quelli cominciato. Che non hanno potuto mettere le regole all'immigrazione, adesso dove vivono, no, Milan? Ecco, dove vivono? Nelle riserve, capito Luisella? Il bello è la differenza. L'unica cosa che ti salva. Brava, fa crescere, è vero, contro l'omologazione. No, era una critica, Aurora. Ma io sono per la biodiversità, Sì. Vabbè, ma tu subito la butti sull'immigrazione e poi Luisella si arrabbia. Sono le 6:35 minuti, dai. Ma Luisella a questa maniera può accogliere chi vuole, voglio dire, non c'è problema. A casa sua, a dai, casa dillo. Sua. Ecco, a casa sua, l'hai detto. Luisella, di la verità, tira fuori secondo i tre extracomunitari che hai messo in cantina. Volentieri chiunque tranne che la Lussana. No, di la verità. Lo facevo così in ospitale. Pensavo che una volta mi aveva anche invitato una sua trasmissione. Veramente? Luisella? Sì, mi avevano chiamato, faceva una bella trasmissione su Rai 3. E lei ha rifiutato. E tu hai rifiutato? C'avevo da stare in redazione. Eccolo lì, ciao. No, fermi tutti. Adesso dobbiamo discutere, già voglio dire, già Renzi e Camusso litigano. Ma adesso non iniziate a questionare voi. Allora, male. Luisella, chi ha ragione, Renzi o Camusso? Ma allora... è veramente una situazione surreale, mi sembra poco, molto grave. Perché? Cioè, il Presidente del Consiglio che va a dire il governo non tratta con i sindacati, le leggi si fanno in Parlamento, dice una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allora, con i sindacati non è che si ascoltano, si fa un dialogo via mail come ha detto. Dopodiché stiamo parlando di Renzi che tratta praticamente solo con Berlusconi, sì. E manco in Parlamento tratta e discute, perché ha record di fiducia, per cui ha annullato e distrutto qualunque dialogo istituzionale parlamentare, perché all'interno del Parlamento mette la fiducia al record del 77% di fiducia, più di Monti e di Berlusconi, per cui in realtà uccide, annulla qualunque dialogo parlamentare, fa passare alla faccia della democrazia tutte le leggi che lui, perché manco i suoi ministri hanno appunto potere e mandato di trattare, di discutere con i sindacati, decide tutto lui, fa approvare quello solo ed esclusivamente che vuole lui. Però questa, ma un è po' una situazione veramente grave. Però un po' non è vero che non bisogna trattare con i sindacati. Cioè, cosa c'è di male? Cioè, si dice vi ascoltiamo, ma non è che faccia una trattativa, vuol dire, non è che facciamo la legge di stabilità in base a quello che dite voi, no? Cioè, le trattative si fanno in Parlamento, no? Tra i partiti. Allora, prima di tutto lo ripeto, non si tratta in Parlamento, nel senso che lui mette la fiducia, la legge e questo è un problema è una politico. Vergogna, è una vergogna anche perché lui ha messo la fiducia annullando il dialogo parlamentare, che è l'anima del Parlamento, su una legge delega dai contenuti più ampi possibili. Cosa succederà? Se e quando ci saranno decreti attuativi, il Parlamento potrà esprimere solo un parere non vincolante, quindi lui potrà metterci quello che vuole e dovrà passare necessariamente. Insomma, questo è allora, il problema politico. Con le parti sociali, così come gli imprenditori, che invece ascolta e come Renzi, tant'è che il Jobs Act è fatto per gli imprenditori, si discute, trattare è un termine che può ovviamente strumentale con cui si condiziona anche l'opinione della gente, però si discute sui sindacati, si dice questo va bene, non va bene, ci possono essere delle aperture, i sindacati hanno degli iscritti, insomma conoscono la vita di milioni di persone e sono i depositari dei loro interessi, delle loro vertenze, di quello che sarebbe giusto fare per il mercato del lavoro, quindi assolutamente in una democrazia un governo deve ascoltare. Ma no, ma ascoltare rispondere. Sì, ascoltare sì. No, cioè, la critica però è questa, che la Camusso dice: ma sì, ma ci ascoltate, ma poi ci dite mandateci le mail. Ma allora che no, trattativa non è? Non ha neanche risposto alle obiezioni che sono state fatte. Vabbè, le obiezioni che hanno portato 1 milione di persone in piazza sabato sono obiezioni di merito. Ci si aspetterebbe dal ministro, ad esempio, del lavoro presente, Poletti, delle obiezioni su questo. Obiezioni che sono assolutamente allora, e su questo? Inutili. No, ma è chiaro, la tua posizione. Tra l'altro mi scrive un ascoltatore, dice: manda un abbraccio affettuoso alla Costa Magna e non te la prendere se non dice le cose che vorresti tu. Ma chi se ne ma che me la prendo? Ma qua siamo al tempio della democrazia, qua possiamo dire tutto quello che volete, ma come no? Ma certo. Aurora, su questo sei d'accordo? Non tratti con la Costa Magna. Ma come non tratto con la Costa Magna? Aurora, che dici? Fa bene Renzi? Con chi stai tu? Renzi o Camus? Ma no, ma scusa, lui il parolaio lì di Firenze, lo statista sull'Arno, lui ha questa bulimia di consenso, quindi potrebbe conquistarsi il sindacato della Camusso in un attimo. Non lo fa perché è una scelta politica, prioristica, nel senso lui ha bisogno di ricollocarsi al centro col partito unico del Nazareno, lui e Berlusca fanno un listone unico nazionale, e quindi è proprio una scelta politica quella di estremizzare il conflitto con la CGIL. Magari lui spera anche che se ne vada via un'ala del suo PD e esce l'operazione della signoria fiorentina, tanto il Senato non ci sarà. Cos'è più la signoria fiorentina? Le province e le regioni le ha svuotate, lui accentra il potere e poi delocalizza tutte le rogne e le responsabilità ai tagli. Sto pensando ai tagli che ci saranno in servizio a breve nella mia regione Lombardia, sì, una regione virtuosa, e va bene, è un'operazione politica straordinaria. Ma infatti si oggi il partito unico del Nazareno e capisci che lo scontro col sindacato gli è utile, proprio un'abile operazione politica. Oggi infatti, sempre su Repubblica c'è questa lettura a dire: è proprio una scelta politica, nel senso lui vuole isolare quel sindacato, cioè non è che il sindacato, ma quel sindacato, cioè la CGL. No, vuole isolare cioè la Camusso, la CGL. Vabbè, sì, non è che si sceglie. Non è che si sceglie pure il leader della CGL, però certo gli sta più simpatico Landini. Gli sta più simpatico che la Landini. Strategia possa essere, insomma, più una lotta intestina, più che Landini a capo della sinistra, Landini a capo della CGL, è uno che giustamente, in fondo, diceva la Lussana, vuole conquistarsi, ha distrutto destra e sinistra, si deve creare comunque un'opposizione, sia pure farlocca, se la crea. Vabbè, ragazzi, ma mi stai descrivendo Musso, stai descrivendo Mussolini, stai descrivendo Mussolini praticamente. No, sto descrivendo uno che sta usando dei metodi e nel merito sta facendo delle cose che sono molto gravi, perché voglio molto dire grave. La legge di stabilità può essere riassunta dal mio punto di vista in due parole: improvvisazione e malafede. Si finge di dare e invece si toglie. C'è un messaggio che ci scrive una gufa. Adesso io a chi lo giro questo messaggio? Esatto. Ad Aurora Lussani o a Luciella Costamagna, una gufa. Tu ti senti Aurora un po' gufa? Un po' gufa. Oh Madonna, ma perché è cominciata la stagione della caccia, qui bisogna poveri gufi. No. Anche tu c'hai sempre questa ossessione ornitologica. Ho letto un messaggio. Sai che vanno i gufi per la maggiore. Sì, anche gli allocchi, i beccafichi. I beccafichi, no. I beccafichi, tordi, ma che tra l'altro non è che sono un granché da mangiare, No, dopo gli animalisti si arrabbiano. Quali sono? No, ma sono tutte bestiole. No. Polente osei. Tu mangi polente osei? No, è orribile. No, è appunto un piatto tipico delle valli orobiche, ma non si mangia più tanto. Non si mangia più tanto. Almeno il Mussolini, a differenza di Renzi, Letta, Monti, quella banda qui che ci ha imposto la troica europea, almeno non tagliava le pensioni. Il complottone, la troica. Che europea ci ha imposto il Letta, il Renzi e il Monti. E a differenza di Mussolini l'economia va comunque male, insomma, che è l'unica opposizione. Insomma, dopo meglio, la Lega, lui se l'ha capito meglio Mussolini, ci tenevamo Mussolini. Allora la Lega è l'unico antidoto al renzismo. Che c'è? Sì, di Luisella, no, che c'è? Dico, con le battute ci si infila nel modo di dialogare, di non dialogare di Renzi, cioè lui è proprio la formula del il futuro, il cambiamento, poi il cambiamento va benissimo se è un cambiamento in meglio, se è un cambiamento in peggio, io non voglio cambiare, questo è. E lui gioca sulle parole, per cui gufi, su questo è abilissimo, cioè noi pionieri e loro le museo delle cere. Sì, è sempre una guerra sulla forma, nei contenuti bisognerebbe raccontare, appunto l'ho visto ancora ieri sera a 8:30, salutiamo Lilli Gruber che è tornata. Il cambiamento è criticabile nel merito, non è sempre sta retorica il gettone, la frase fatta baricchiana, perché adesso, insomma, se uno mette insieme tutti i discorsi che ha fatto, sono pura fuffa, forma, nei contenuti è assolutamente contrastabile. È un po' baricchiano, Aurora, hai sentito? È baricchiano. È un po' scaricato, baricco. L'ha un po' scaricato, effettivamente. Ma che è scaricato? Ma un po' sì, dai, un po' non c'è più, insomma. Non è vero, ho fatto una lettera a Baricco che non è andato perché mi si nota di più se non vado. Ma è di quelli vado, non vado, mi si nota di più. No, però voglio dire, ho scritto una lettera sul fatto l'altra settimana, negli anni in cui Baricco diceva che non bisognava dare finanziamenti pubblici alla cultura, la sua scuola Holder ha incassato centinaia di migliaia di euro da regione comune. Eccola la zampata della Costa Magna. Sono dati concreti, per cui nella forma dell'appunto vado o non vado, nei fatti il legame è molto forte. Temo, perché Baricco comunque è un intellettuale, temo che invece le formule del PIN del paese, del gettone nell'iPhone siano tristemente di Baricco. Allora, ai, colpa di Baricco. E dire che ieri abbiamo sentito anche Crozza che faceva già l'imitazione della Camusso col gettone, non so, o Crozza o Baricco. Comunque, io devo andare al traffico, poi voglio ripartire perché oggi la Padania titola sciopero, rivolta fiscale. Ieri ce l'ha annunciato qui Salvini, faremo la rivolta fiscale in Lombardia. C'è un ascoltatore, Gianni, che ci scrive stamattina due sexy symbol da Milan. Oh, che bello. 24 mattino. Il sindacato ha portato in piazza 1 milione di persone spendendo 40 milioni di euro. Ma dove hanno presi tutti questi soldi? Per sprecarne così tanti non potevano andare dalla Barbara d'Urso? Il bullo di Star Trek vuole rottamare la vecchia guardia e poi fa gli accordi con Tutankhamon. Fa ridere. Ma Ignazio Abate assomiglia un po' ad Alessandro Milan o sbaglio? Io volevo dire una cosa alla signora Lossana. Capisco che il Presidente del Consiglio non gli possa piacere, però il fatto che dica abbiamo un Presidente del Consiglio che è toscano, che vuol dire? Che i toscani non capiscano nulla, i bergamaschi sono meglio dei toscani? La Luxana, quella di Radio Padania, lì, ti rendi conto? Cioè questa, mamma mia, c'è un cervellino che bisogna gonfiarglielo tutte le mattine. Come si fa a chiamare della gente così? Dai, fa ridere, dice solo delle boiate, secondo me gliele scrivono anche. Se pigliasse un bruciaculo, Milan, quante chiacchiere che dite al mattino, che frastuono. Ah, un bruciaculo deve prendere. Vabbè, io l'ultimo era per me, Aurora, l'ultimo era per me. Ma c'è qualcuno arrabbiato con te? Ma che ce l'hai con i toscani? No, ma che scherzi. No. Questo toscano si è un po' risentito, eh. Se avessi io la dizione che hanno i toscani, ho una mia amica laureata in italianistica che infatti mi corregge sempre la dizione. Vabbè, vuoi rispondere all'ascoltatore che ti accusa di avere un cervellino? Ragazzi, ci avrò l'amigdala più sviluppata e il cervello meno sviluppato, il cervello primordiale, certo, a capo delle pulsioni, degli istinti primordiali, cosa ti devo dire? Ecco, non cominciare, che tu, no. Allora, cara Luisella, tu hai scritto il libro, Luisella, cosa pensano di noi sul sesso e gli uomini, cosa pensano di noi, e tu Aurora Lussana, qui hai Aurora Lussana che dice sempre che è per l'amore panico e orgiastico, ora adesso... Fate le brave, perché... No. Insomma. No, vabbè, insomma, sono per l'autodeterminazione degli individui, la sessualità è una dimensione importante, saremmo capito, a posto, però. Guarda, se la gente fosse meno frustrata in quell'ambito lì. Ascolta, legge di stabilità, sì. Hai visto? Sì. Allora, taglieranno i servizi qua in Lombardia. Sì. E quindi? Alla spesa sociosanitaria, trasporto pubblico. Rivolta fiscale. Dall'istruzione è una grande iniquità, perché comunque tu hai una regione che funziona, che garantisce servizi. Mica la Luisella che vive a Roma, se mangiano tutto. No, vabbè, tu magari dai 80 euro davvero alle neomamme e poi gli togli i servizi alla prima infanzia gestiti dai comuni. Vergogna, vergogna. No, vabbè, è vergogna. No, ma hai capito, ma rivolta fiscale, io ieri l'ho chiesto a Salvini e mi ha detto, stiamo studiando, cioè la Lega quando è così sempre, stiamo studiando, cioè che concretamente come si fa una rivolta fiscale, cioè cosa fanno? Fermano i lingotti d'oro. Ma il governatore dei Lombardi, il governatore dei Veneti. Dicono stiamo studiando delle forme. Adesso c'è una trattativa in corso, comunque la conferenza Stato-Regione. Ci dovrebbe essere questo lodo Chiamparino, insomma, a parte che dopo la pessima performance della scorsa settimana del Rio Chiamparino, lì vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Lasciamo è veramente una brutta. E ci auguriamo che ci sia un confronto con le regioni da parte del governo, sperando che non tratti le regioni come sta trattando. Se no, rivolta fiscale. Ma secondo te, Luisella, ha un po' ragione la Lombardia o il Veneto a dire facciamo la rivolta fiscale? Ci ha rotti le palle di dare soldi che vanno nel magna magna di Roma. Ma non è questione di Lombardia, Veneto, non è facciamo un discorso di nord e sud. No, le regioni più produttive, le regioni più virtuose. Sì, ma in generale Quelli che hanno i conti a posto. I tagli alle regioni, che ovviamente come sempre Renzi ci mette solo la faccia bella di dire tagliate gli sprechi. Nei fatti non si prende la responsabilità, le scariche in generale sulle regioni, che è vero, taglieranno perché non taglieranno gli sprechi che sono sempre lì, e taglieranno servizi, sanità e trasporti pubblici in primis, e aumenteranno le tasse locali. Quindi teoricamente dal centro si dice taglieremo l'IRAP, un'imposta regionale, e le regioni saranno costrette. Sì, ma ho capito, ma il Veneto e la Lombardia ti dicono ma io ho i conti a posto, se fossi autonomo, per dire, io reggerei con i miei conti, invece devo pagare gli sprechi di Sicilia, Campania, non è un discorso nord-sud, i numeri sono quelli. La Lombardia, non parliamo di sprechi, perché cosa è stata la giunta della regione Lombardia, quali sono i giri di mazzette legate all'andrangheta sull'Expo. Eccala. Hanno l'ex presidente Formigoni, l'ex presidente della regione Lombardia, che è rinviato a giudizio per associazione a delinquere, quindi non è c'è Aurora che sbuffa. Cosa sbuffa? No, io penso quelli che devono usufruire dei servizi sanitari in Lombardia. Sì, noi curiamo anche malati di altre regioni in Lombardia, per fortuna, perché ci sono tante eccellenze. Sono più preoccupata. Sì, ci sono anche stati tanti sprechi con le convenzioni date alla sanità regionale. Dopodiché non ne facciamo un discorso, usciamo un po' da questa retorica brutta del nord e del sud. Dai, su, Aurora, esci da questa tua retorica leghista. No, perché veramente... Ma Vignone Go, Milan è. Ecco. Cos'è che hai detto? La Lombardia purtroppo negli ultimi anni non ha nulla veramente da insegnare a quanto a immoralità al resto d'Italia. Ecco. Quindi vale anche per il Piemonte. Vieni giù dalle valli bergamasche farci la morale. Come mai vengono a farsi curare in Lombardia da tutta Italia? Quella è la domanda. Evidentemente qualcosa funziona, evidentemente che ha bisogno di cure importanti in Lombardia. Se ci siano delle eccellenze non ci sono dubbi, ci sono stati anche dei buchi di miliardi di euro al San Raffaele, dopodiché vale anche per il Piemonte, se per quello Chiamparino 10 sono finite a giudizio perché si compravano lo champagne i navigatori satellitari con i rimborsi. Vabbè, ma sì, ma quello le spese dei consiglieri regionali, ma si sa che sono in Lombardia e Veneto ci sono gli ambulatori aperti non stop la sera e il sabato e la domenica, sono servizi essenziali per chi questo lavora, è vero, per chi è vero. No, quindi però insomma io non posso garantire i servizi e utilizzare i soldi dei Lombardi e dei Veneti

Io credo che la stampa in una sala attigua avesse ben potuto essere presente. Lei avrebbe voluto addirittura che ci fosse in remoto, ovviamente, ad ascoltare Totò Riina stesso, il suo assistente. Certo. Io gli ho chiesto è già come ogni altro imputato, voglio dire, no? Non è processo normale, insomma, in un paese normale si fanno processi normali, ma questo è un paese in emergenza perenne e questa è la storia. Senta, ci dica, non ci dica che però non ci può anticipare nulla, ci dica che cosa intenderà chiedere, su quali ambiti si muoverà nei confronti del capo dello Stato, quando le sarà data la possibilità di fare a lui delle domande. Ecco questo, cioè va visto se verrà data la possibilità, perché nella norma ci sono le possibilità sia per fare oggi un'udienza ampia che può finire anche al pomeriggio. Credo che il presidente Napolitano su questo non abbia nessun problema, cioè mi pare di aver capito in ciò che è uscito sugli organi di stampa che sia disponibile a essere sentito, e quindi sia per andare al pomeriggio sia che possa finire in un quarto d'ora, perché se poi si deve chiedere solamente i contenuti della lettera, e lui ha già detto che su questi contenuti la vede in una certa maniera e non credo che anche perché avvocato credo di aver capito che il giudice presente alla corte accetterà, deciderà se sono ammissibili le domande, e in qualsiasi momento, come scrive oggi Giovanni Biancone sul Corriere, il presidente potrà negare, concedere, negare, revocare in qualunque momento la possibilità a continuare nella testimonianza. Napolitano non lo farà, perché se facesse questo sarebbe come un avvalersi della facoltà di non rispondere, quindi Napolitano, il presidente Napolitano non revocherà proprio niente. E quindi se lei avesse la possibilità, che cosa le chiederebbe? Io ero bambino e oggi non lo sono più. Il primo libro che mi venne in mano, che parlava di queste cose, cominciava così, era un Reader Digest, mi pare. Nemmeno i morti parlano, storia della mafia. Ora, se noi dobbiamo fare una istruttoria sulla lettera del povero dottor D'Ambrosio, non andiamo molto lontano. Se noi viceversa vogliamo interrogare un vivo, cioè un testimone di altissimo livello, come è il presidente Napolitano, su quello che quale presidente della Camera subentrante a Oscar Luigi Scalfaro in quel preciso momento tra il 92 e il 94 venne a sapere, anche perché nel 93 fu posto all'attenzione come possibile vittima, allora la cosa si fa seria. Certo. Si fa molto seria, lei, per esempio, sarebbe una crescita di questo paese. Lei vorrebbe per esempio sapere perché sul 41 bis sono state prese delle decisioni dopo Capaci? No, dopo Capaci per forza ci sono, va bene, sì, questa è la questione, mi rendo conto è molto specialistica, quindi ecco, la questione è questa: dopo Capaci fu introdotto il 41 bis, esattamente come per i brigatisti quando ci fu il problema di Moro fu introdotto l'articolo 90, la questione fu uguale. Dopodiché cosa succede? Succede che la mafia reagisce, si allea, si apprende oggi con la massoneria, con si dice politica massonica, che vuol dire tutto e non vuol dire nulla, tra l'altro, e da lì sarebbe è iniziata una stagione di attentati di ammonimento, peraltro, no? Cioè a dire attentati a degli obiettivi strani come i musei, l'Accademia dei Georgofili. A mio avviso molto più che non gli Uffizi, vero obiettivo della bomba di Firenze, l'ho sempre detto, e oggi viene ancor più di attualità. A Milano la galleria, il padiglione d'arte contemporanea. Ma lei vorrebbe sapere, secondo lei, dalla testimonianza di oggi, avvocato Cianferoni, si potrà sapere qualcosa di più anche di quei misteri? Ripeto, sì, a mio avviso oggi o viene fuori un'udienza che poi va veramente sui libri di storia, o viene l'ennesima udienza all'italiana, cioè un pareggio 0-0 che diceva Gianni Brera è il migliore dei risultati di una partita di calcio. No? Avvocato, quindi, ma lei che qua tutti cercano lo 0-0. Mi dica la verità, lei, poi voglio presentare un ospite che ci sta ascoltando. Avvocato, lei ha sentito Totò Riina e farà nel caso domande a Napolitano per conto di Totò Riina? Questo per forza, cioè voglio dire, no, io nel sono senso, ho capito, per forza, sì, no, ma questo sì, vado lì per fare questo le domande, sì, nell'interesse del mio, la cliente, domanda no? Era diversa, cioè Totorina, sì, le ha detto chieda, no, a Napolitano questo avvocato faccia lei, no, faccia lei, detto, faccia avvocato lei. Faccia lei. Ci mancherebbe. Quindi lei le domande le sceglie il professionista. No, lei è chiaro che si comporterà nell'interesse del suo assistito. Beh, è chiaro, questo è, cioè, ovvio. Viene fuori, è ovvio. No, è ovvio, aspetti però, viene fuori che quest'uomo condannato 100 volte in una volta almeno pare che sia innocente, cioè non è riconducibile a lui la strategia, sì, del 93, cioè, sì, le bombe di via Fauro, Maurizio Costanzo, sì, Firenze, Roma, Milano hanno una decisione diversa. Fuori da Cosa Nostra, entità strane. Strane, strane. Sì, entità strane. Strane, ecco, diciamo, mettiamola diciamo così, alle 8:15 di mattina. Va per bene. Semplificare. Avvocato, mi faccia presentare una persona che invece non ci, prego, sarà, è un ex magistrato e che forse avrebbe voluto esserci, non lo so, glielo chiedo, sì, subito. Antonio Ingroia, buongiorno, ah, e benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Lei avrebbe voluto essere al Quirinale oggi? Beh, ha fatto una scelta, diciamo, di vita diversa quando è entrato in politica. Ma se fosse stato lì, se fosse lì oggi, cosa chiederebbe al presidente Napolitano? Beh, come ho detto già in qualche intervista, scritto in qualche articolo, avrei voluto fare delle domande che non si potranno fare in quell'aula. Per esempio? Io credo che alcune questioni sono state precluse all'accertamento della verità, faccio riferimento ai tentativi di interferenza su quell'indagine di uno degli imputati, cioè l'ex ministro Mancino, e tutto quello che ci fu prima di quella lettera famosa, principale oggetto della deposizione di oggi di Loris Lambrosio, sì, la lettera di Loris Lambrosio dove fa evidente allusione a colloqui riservati con il Presidente della Repubblica, colloquio durante il quale Lambrosio avrebbe fatto sapere di conoscere notizie su indicibili accordi avvenuti dietro le quinte. Però su questo Ingroia, sì, però come sa Ingroia, su questo Napolitano ha già detto non ho nulla da dire, e Lambrosio è morto e quindi credo che da quel punto di vista non si potrà, cioè se il Presidente della Repubblica dice non so nulla di questi, non so nulla, che non sappia nulla soggettivamente è impossibile, tranne che non voler accusare di falso il povero Loris Lambrosio che non può più smentire. Se non ho nulla da dire, vuole alludere alla impossibilità di riferire di colloqui in qualche modo ritenuti dal capo dello Stato inerenti alle prerogative presidenziali, è un'altra questione, è una questione appunto relativamente a questa sorta di muro che si è costruito attorno al Presidente della Repubblica e presunti segreti di Stato di cui il Presidente della Repubblica ha conoscenza. Beh, io credo che questi segreti di Stato, di fronte alle verità su una stagione terribile come quella delle stragi e delle trattative, non dovrebbe aver luogo, non dovrebbe mai prevalere sulle ragioni della verità. Ma perché secondo lei Napolitano, glielo dico direttamente da uomo della strada, nasconde qualcosa che non può dire in nome di una presunta, come dire, tutela delle istituzioni? Io non voglio dire questo perché non è mai stato il mio costume, né da pubblico ministero né oggi che faccio l'avvocato, diciamo, fare i processi alle intenzioni. Un dato è certo però, che il Presidente Napolitano ha più volte fatto appello a ragioni di Stato ritenute prevalenti sulle ragioni del diritto e della legge, a cominciare dal famoso conflitto di attribuzione, a cominciare appunto all'appellarsi a prerogative presidenziali che sono poi state riconosciute dalla Corte d'Assise nel momento in cui si è ristretto l'ambito delle domande che saranno consentite oggi in quell'aula. Chiedo anche a lei, avrebbe preferito i giornalisti? L'avvocato Cianferoni ha detto sì, in un'udienza normale sarebbero intervenuti anche i giornalisti. Direi che in qualsiasi parte del mondo ci sarebbero stati i giornalisti, solo in Italia, un paese che ormai diventa sempre più a democrazia dimezzata, può accadere una cosa del genere, che il capo dello Stato venga sentito da testimone su una vicenda così delicata che è stato oggetto anche di contrasti e conflitti tra potere politico e potere giudiziario, e che i cittadini ne siano mantenuti all'oscuro, visto che i giornalisti altro non sono, la stampa altro non sono che longamanus dell'opinione pubblica. Per concludere, io vorrei dall'avvocato Cianferoni ad Antonio Ingroia. Avvocato Cianferoni, lei davvero cosa si aspetta? Cioè, se teme più quello 0-0 a cui ho fatto riferimento prima, ma cosa si aspetta per il suo assistito? Cioè, uscirà dal Quirinale nel massimo delle sue ambizioni con che cosa in mano? Ma intanto buongiorno al dottor Ingroia, che non sentivo da un po'. E per quanto riguarda che mi aspetto, quello che ho detto prima, che si chiarisca la sua estraneità alla fase ideativa e volitiva degli attentati del 93. Per il resto il cammino è lungo. Quindi si tratta, oggi potrebbe cominciare, ripeto, se non finisce 0-0 qualunque risultato è buono. Che si muova la palude italiana, qualunque risultato è buono. E chiedo invece al dottor Ingroia la stessa questione: che cosa pensa che uscirà da questa udienza? E le chiedo anche, per molti potrebbe essere considerata anche una vergogna mondiale, cioè il fatto di esporre un'istituzione a un processo, a una testimonianza, addirittura si pensava un tempo con la presenza in remoto di Totò Riina. Il suo parere, Ingroia? Ma allora, dall'udienza io temo che ci sia da aspettarsi poco. Sono convinto anch'io che verrà fuori un nulla di fatto, una verità dimezzata. Il mio augurio, per quanto sia ancora, diciamo, innamorato di questo Stato, per il quale da pubblico ministero ho svolto il mio ruolo, e che ci sia un colpo di scena, e cioè che il capo di questo Stato faccia venire fuori dallo scetticismo che tanti cittadini hanno verso questo Stato. Cioè, che Napolitano riveli che cosa? Un colpo di scena? No, il colpo di scena sarebbe che... Una domanda. Il presidente Napolitano non si trinceri dietro prerogative presidenziali, che racconta fino in fondo quel colloquio che sicuramente ci fu con Loris D'Ambrosio, e a cosa si riferiva Loris D'Ambrosio quando parlava dei suoi timori di essere stato ingenuo scriba alle... Indicibili accordi. Lei spera questo. Staremo intanto a vedere alle 10, credo, avvocato Cianferoni, è sì, l'ingresso al Quirinale. Sì, alle 10. 9.15, 9.40. Ah, vabbè, tra pochissimo. C'è il tempo per la registrazione, giustamente. Per controllare. Bene. Grazie, avvocato Luca Cianferoni, avvocato di Totò Riina. Grazie ad Antonio Ingroia, ex magistrato, per essere stati con noi. Dopo la pubblicità, invece, ci occuperemo di un altro tema, un tema che non è finito molto sui giornali, anche se alcuni giornali se ne sono occupati in maniera meritoria, oserei dire. Parliamo di Iran, dove una giovane donna 26enne è stata impiccata perché ha accusato, ho ucciso una persona, ma perché mi stava violentando. Secondo le autorità iraniane invece no. È stato un processo che è stato considerato da tutti una violazione palese dei diritti umani. È stata impiccata questa ragazza, e non è che il mondo abbia fatto sentire la propria voce in maniera molto molto tonituante, e ce ne occuperemo tra poco anche sull'onda dell'idea di dire: ma che succede quando avvengono episodi del genere? Bisognerebbe rompere le relazioni diplomatiche, oppure bisognerebbe andare avanti, perché la politica del pragmatismo deve vincere su tutto. 24 mattino. Cara Cholet, oggi ho appreso che ora è il mio turno di affrontare l'Aksas. Il mondo mi ha concesso di vivere per 19 anni. Ma arrenditi al destino e non lamentarti. Tu sai bene che la morte non è la fine della vita. Tu mi hai detto che per creare un valore si deve perseverare, anche se si muore. Quanto è ottimista colui che si aspetta giustizia dai giudici. E questo paese per il quale tu hai piantato l'amore in me non mi ha mai voluto, e nessuno mi ha sostenuto quando sotto i colpi degli inquirenti gridavo e sentivo i termini più volgari. Quando ho perduto il mio ultimo segno di bellezza rasandomi i capelli, sono stata ricompensata. 11 giorni di isolamento. Cara Cholet, non piangere per ciò che stai sentendo. Il primo giorno in cui alla stazione di polizia una vecchia agente zitella mi ha schiaffeggiato per le mie unghie, ho capito che la bellezza non viene ricercata in quest'epoca. La bellezza dell'aspetto, la bellezza dei pensieri e dei desideri, una bella scrittura, la bellezza degli occhi e della visione, e persino la bellezza di una voce dolce. Il mondo non ci ama, non ha voluto che si compisse il mio destino, e ora mi arrendo adesso e abbraccio la morte. perché di fronte al Tribunale di Dio io accuserò gli ispettori, accuserò il giudice e i giudici della Corte Suprema che mi hanno picchiata mentre ero sveglia e non hanno smesso di minacciarmi. Cara Cholet dal cuore tenero, nell'altro mondo siamo tu e io gli accusatori e gli altri gli accusati. Vediamo cosa vuole Dio. Vorrei abbracciarti fino alla morte. Ti voglio bene, Reyene. Questa è la lettera che Reyene Jabari ha potuto scrivere poco prima di essere impiccata in Iran a 26 anni. È stata accusata quando ne aveva 19 di avere ucciso un uomo. Lei si è sempre difesa dicendo: quell'uomo mi voleva violentare. E, è un processo che, a detta di tutti i militanti dei diritti civili, è stato un processo farsa, non un processo verità. Succede nel 2014 in Iran, e per la verità, ecco, do subito una premessa: la pena di morte non c'è solo in Iran. Stiamo parlando di questo caso perché, come ha scritto anche sul Corriere della Sera Pierluigi Battista, la legge del realismo, o se volete del pragmatismo politico, impone in qualche modo di tracciare, di mettere sotto traccia queste vicende di cronaca. Pierluigi Battista, che è con noi, saluto del Corriere della Sera, buongiorno Pierluigi. Buongiorno. Così come voglio salutare Farihan Sabahi, che è una scrittrice, intellettuale, docente universitaria italo-iraniana, ci parla da Turchia. Il suo ultimo libro lo voglio ricordare, Il mio esilio, Shirin Ebadi, con Farihan Sabahi. Farihan, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno a tutti voi. Intanto ti chiedo, da donna, da iraniana, come hai vissuto questa vicenda e che considerazioni si possono fare? Cosa dovremmo fare di fronte a una notizia di cronaca di questo tipo? Secondo me è giusto, più che giusto, accendere i riflettori e indignarsi, ma bisognerebbe cercare di collaborare con questi paesi. Parlo dell'Iran, ma parlo anche dell'Afghanistan, con cui l'Italia ha proprio avuto un programma per sviluppare il sistema legale, perché il nodo cruciale è la giustizia, ma in particolare un sistema legale dove ancora vige la legge del taglione, perché i capi di Stato, i capi di governo non possono chiedere la grazia, che so, al leader supremo Ali Khamenei oppure al presidente della Repubblica Islamica Rouhani, il cosiddetto moderato, perché in realtà la giustizia non la fa lo Stato, non la fa la magistratura, ma la giustizia la fa la famiglia della persona offesa, della persona che è stata uccisa. In questo caso, a permettere di salvare la vita di Rouhani poteva essere soltanto la sua famiglia, quindi la madre e il figlio, che non l'hanno concesso, anche perché la ragazza non ha ritrattato il fatto che quest'uomo stesse cercando. E questo, secondo me, è la cosa giusta, perché veramente Rehone in questo senso diventa un simbolo, tenuto conto che comunque in questi paesi, ma anche per esempio appunto in Afghanistan, in Pakistan, la donna che ammette di essere stata violentata ammette il reato di zina, di fornicazione, di adulterio, quindi di aver giaciuto con un altro modo o uomo al di là del marito, anche se questo non è del tutto volontario. Però accendere i riflettori è sicuramente un qualcosa di doveroso. C'è qualche altro passo in più, secondo te, che bisogna fare nei confronti di stati che ammettono questo tipo di pratiche? Secondo me non è una questione di realismo politico, perché l'Iran è già comunque nell'asse del male, un paese che gode di pessima stampa. Secondo me il discorso del realismo politico vale più che altro con paesi che sono nostri alleati, alleati dell'Occidente, e penso all'Arabia Saudita, che continua per esempio a decapitare le persone e a fare invece delle fatwa, dei decreti religiosi per delle cose che non hanno senso. Quindi ci si rivolge ai leader religiosi chiedendo delle opinioni su delle cose che sono irrilevanti, laddove questi leader religiosi, che sono pagati dallo Stato, perché ricordiamo che in alcuni di questi paesi, non ultima la Turchia dove mi trovo in questo momento, sono religiosi al soldo di un ministero degli affari religiosi. Quindi realismo politico senz'altro, bisogna fare pressione, magari come dice Shirin Ebadi, con cui ho scritto quest'ultimo libro che è uscita proprio in questi giorni per Mimesis, era uscito in digitale per Feltrinelli. Bisognerebbe parlare un po' più di diritti umani e un po' meno di nucleare, visto che il nucleare c'è la scadenza il 24 novembre, ma è una scadenza squisitamente politica. Parlare un po' più di diritti umani, non so, per Luigi Battista, si immagina che in un ipotetico incontro tra i leader iraniani e i leader di paesi occidentali il caso di Reyene venga messo sul tavolo, oppure no? Beh, assolutamente, in questo momento assolutamente improbabile. I diritti umani non hanno mai goduto di grande considerazione nella, diciamo, nello scacchiere della politica internazionale. Forse qualche cosetta si era accesa nell'opinione pubblica. Quello che voglio dire e quello che ho voluto dire, che ho voluto scrivere, è che adesso l'opinione pubblica non gliene importa assolutamente più nulla, per quella considerazione, diciamo, chiamiamola così, di realismo politico, che non è una strategia ma è anche un sentimento, ed è il sentimento di dire meglio tenersi questi perché al peggio non c'è mai fine. Questa è, diciamo, la rovinosa sconfitta, diciamo, delle illusioni legate alla primavera araba, per cui i massacri di un orrendo dittatore come Assad oramai sono in secondo piano, perché tutto sommato l'indebolimento di Assad potrebbe essere il rafforzamento dello Stato islamico e dei tagliagore. Con l'Iran è idem, lo stesso discorso, cioè meglio in questo momento è meglio non averli nel mirino. L'Arabia Saudita, figuriamoci, l'Arabia Saudita fa parte della coalizione che contro l'ISIS, per cui perché dobbiamo metterli a romperci le scatole perché un cristiano viene messo a morte perché ha un rosario, insomma non è una cosa. Però che bisognerebbe fare? Cioè, questo... il nostro Afghanistan, il nostro, no? Sì. Nel senso, anche lì condannato a morte, poi dopo diciamo, non ucciso, ma condannato a morte un uomo apostata perché aveva osato abbracciare la fede cristiana. Ma questo non vale solo mica soltanto per il mondo islamico, tra virgolette, perché lo stesso atteggiamento noi ce l'abbiamo nei confronti della Cina, nei confronti della Russia. Ma chi si ricorda più di Anna Politkovskaya? Oramai rievocarla è una provocazione, no? Perché Putin tutto sommato, anche lì lui nella grande battaglia santa contro, lui ha saputo fare in Cecenia, ha saputo fare bene il lavoro, no? E quindi sì, ma è così come la questione del Tibet e della Cina, cioè non è una questione di stati però islamici. Ancora mi ricordo ancora quella fase un po' timida dei governi, che la Merkel che invitavano il Dalai Lama. Tutto adesso basta, è finito. Ma tutte cose, non so, forse si potrebbe dire di facciata, poi il nome dell'interesse, interessi economici, commerciali, geopolitici, strategici, vincono sempre su quella che è una battaglia, come dici tu, una battaglia, come dire, di retroguardia, che non paga politicamente, che è quella per i diritti umani. Ma ripartiamo da qui, tra un attimo, dopo il traffico, con Pierluigi Battista e Farian Sabai. Vorrei fare a Battista e Sabai la stessa domanda, cominciando da Battista, visto che nell'articolo del Corriere della Sera in cui parlavi di questa vicenda di questa ragazza iraniana, parlavi appunto anche di Siria, Egitto, del Pakistan. Ricordiamo, in Pakistan c'è una ragazza cristiana, Asia Bibi, che viene condannata a morte perché blasfema, considerata blasfema. Insomma, molti stati, l'Arabia Saudita, non tutti, ma molti stati in cui l'Islam è la religione predominante, se non unica. E allora faccio questa domanda: questi problemi sono maggiormente presenti, questi problemi di relazioni, di come rapportarci laddove c'è l'Islam, oppure no? La domanda comincio io? Sì. Ma fattualmente è così, queste cose hanno sempre un contenuto molto scivoloso, si rischia di andare su espressioni roboanti, scontro di civiltà, guerra di religione, cose che per carità. Diciamo, è vero che esiste, diciamo, una porzione del mondo in cui non esiste per esempio la separazione tra religione e politica, che non esiste la separazione tra reato e peccato, e non esiste la possibilità del pluralismo religioso. Su questo mi sembra che non ci sia alcun dubbio, sia nei regimi, diciamo così, cosiddetti islamici moderati, chiamiamola così, Arabia Saudita, nel senso di una collocazione internazionale meno aggressiva, sia in una lettura di fondamentalismo, radicalismo politico islamico. Questo, diciamo, avviene perlomeno, se vogliamo fare una data possibile, a cominciare dalla rivoluzione comunista in Iran. Insomma, questo è sicuramente così. Esistono una battaglia che secondo me non deve finire mai. Ci sono dei risultati, ieri sono state delle elezioni in Tunisia cui sembra che i partiti laici siano prevalenti rispetto a quelli del fondamentalismo religioso, la speranza è l'ultima a morire. Abbiamo pensato appunto in Egitto, quando abbiamo visto quella piazza riempirsi di persone che sicuramente non avevano niente a che fare spartire con il fondamentalismo religioso, poi è successo quello che è successo e adesso l'alternativa è tra un golpismo militare laico, sì. Perché quello non c'entra, anzi quello è, e diciamo è il pericolo dei fratelli musulmani e così via. Questa è un po' l'alternativa. E il quadro è la tristezza nel vedere, diciamo, per chi ha creduto, insomma, ingenuamente nella democrazia, nella possibilità di che la democrazia potesse conquistare anche paesi che democratici non sono, questa è una grandiosa sconfitta, cioè una sconfitta culturale epocale. Io nel sentire anche il parere di Ferenza vi devo rispondere ai tantissimi che mi scrivono via SMS: ma non citate gli Stati Uniti, sono cristiani, ma come non fate la pena di morte? Ma lo dite a me, ma io quando ho iniziato qui a Radio 24, chi se lo ricorda, nel 2000 abbiamo fatto tutta la campagna con Giancarlo Santalmassi per Derek Rocco Barnabei e per combattere la pena di morte negli Stati Uniti come ovunque nel mondo, perché la pena di morte nel mondo ovunque è uno schifo assoluto. Oggi si sta parlando di questo caso perché è sulla cronaca, ma Ferenc Sabahi, la stessa questione sul rapporto tra noi e l'Islam. Sicuramente ha ragione Battista, non c'è spartiacque tra Stato e Chiesa in questi paesi a maggioranza musulmana, ma io introdurrei anche un altro problema da parte occidentale, perché in Occidente è stata difesa per decenni, è stato difeso il relativismo culturale, anche in un certo senso il relativismo dei diritti umani. Non dimentichiamo che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è del 1948 e c'erano state tante riserve da parte di alcuni paesi musulmani, penso all'Iran, al Sudan, al Pakistan, all'Arabia Saudita. Quali erano i problemi principali? Sicuramente i diritti delle donne, perché questi paesi non potevano nemmeno pensare che le donne avessero uguali diritti agli uomini. Teniamo conto che in paesi come l'Iran sono stati fatti dei passi da gigante in questi 35 anni, nonostante la Repubblica Islamica, perché c'è un femminismo che va avanti da oltre 100 anni, mentre ci sono paesi dove, come l'Arabia Saudita, dove la donna rimane minorenne di fatto per tutta la vita. E poi c'è l'altro problema, la riserva sulla libertà di religione, la licenza dei sindacati. E qui ho un po' l'impressione che sui media occidentali si parli del caso di Rehane perché è donna, perché è facile accendere i riflettori su di lei, si parla meno di altri casi che io penso siano altrettanto importanti, come le minoranze religiose, che non sono necessariamente quelle cristiane per le quali l'Occidente si erge a baluardo in difesa, ma sono anche le minoranze all'interno del mondo islamico. Io penso alle minoranze sciite che vengono represse, condannate a morte, anche in carcere per decenni in Bahrain, dove c'è stata una primavera araba, sì, che è stata soffocata perché il Bahrain è un paese che conviene all'Occidente, si fa la Formula 1, ma soprattutto c'è la quinta flotta americana e ancora c'è un leader religioso sciita che in Arabia Saudita è stato condannato a morte. Gli interessi prevalgono sempre. Fatemi sentire però Egle, che ci chiama dalla provincia di Trapani su questo tema, vorrei sentire il suo parere. Egle, buongiorno. Buongiorno, guardi, ieri sera io stavo sfogliando le pagine di un testo di storia dell'arte, sì, e mi ritrovai di fronte un bellissimo dipinto bizantino e dissi: ma guarda, il mondo per certe cose, per tutto ciò che di orrendo sta accadendo, compreso il caso di questa della ragazza iraniana impiccata, è un dipinto bizantino, perché noi vediamo queste figure in contemplazione che sono sicuramente scioccate, impaurite, ma in realtà poi la reazione non esiste, cioè almeno è fuori dal quadro naturalmente, non esiste, è minima. E mi pare lei dice che assistiamo a queste cose terribili, c'è magari una minima reazione di due giorni di indignazione e poi nulla. Dico una cosa, mi sembra che parlando con la gente di ogni ceto sociale, di ogni tipo di istruzione, che si stia ad aspettare una sorta di Deus ex machina, come se la tragedia dovesse essere risolta da una divinità così che a un certo punto dice basta. E invece di prendere in mano la situazione. No, Egle, la ringrazio, ma con il suo intervento devo chiudere perché ci fermiamo qui. E voglio ringraziare Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera, e Farian Sabahi. Ricordo ancora il libro, appunto, se volete, è uscita tra pochi giorni, Il mio esilio, Shirin Ebadi, con Farian Sabahi. Grazie per essere stati con noi, con Lorenzo Nespoli, con Alessandro Longoni, con Anita Panizza, oggi in redazione, questa settimana con noi. Vi do l'appuntamento a domani, Peter Bescapè in regia, e sarà qua alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.